Buonasera. Piccola avvertenza. Io avrei voluto parlare in italiano, ma qualche giorno fa mi è venuta in mente un'esperienza che mi è stata successa 15 anni fa a Parigi, quando all'École des Hautes Études Sciences Sociales ho deciso di fare o dare le mie lezioni in francese. E dopo 2 o 3 giorni, un collega francese mi aveva detto: «Senti, sarebbe meglio parlare in inglese, perché in inglese tu sembri molto più intelligente». Sì, e lui aveva ragione, dato che in qualsiasi lingua straniera io non ho controllo su certe distinzioni che io posso fare in inglese. Per esempio, io non posso fare con confidenza in italiano distinzioni come quella tra narrative and narrativization. La narrativa e narrativizzazione, infatti, io non posso pronunciare. Narrativizzazione. Ok, e anche distinzioni anche come... anche noi riusciamo a pronunciare. Ok, perché è un tipo è di barbarismo, non è vero? Novel and the novelesque, cioè romanzo e romanesco. History and storia, and story, cioè in inglese noi diciamo storia per racconto, e history in italiano è difficile di separare questi due, modernità e modernismo. In italiano ho trovato che modernismo vuol dire questo movimento religioso cattolico del tardo 800, non è vero? E si usa la parola modernità per quel movimento dell'illuminismo fino a ieri altro, di Entzauberung der Welt, disincanto del mondo. Grazie. Disincanto del mondo. E per anche per la risposta a quello culturale in letteratura, arte, avant-garde, tutto quello che è una reazione contro gli effetti di modernismo, modernità. Noi chiamiamo questo altro movimento modernismo. Anche un'altra distinzione qua di story and plot, tra questi due aspetti di un narrativo. Ogni tanto, quindi ho deciso di parlare in inglese e di lasciare le distinzioni in italiano al mio bravo interprete, che sapra inglese molto meglio che io non sappia italiano. Ogni tanto io cercherò di supplementare il discorso in inglese con le equivalenze italiane, come io le capisco. Vorrei ringraziare Philip, l'interprete, e chiedo scusa dagli uditori per il mio italiano discreto. Ok, adesso I will speak a brano or so in English, and Philip will summarize in Italian for those of you who feel more comfortable in your native language. Io dirò un qualcosa, un brano, e poi ci sarà una sintesi in italiano per chi non segue l'inglese. Okay, I didn't know that this was being advertised as a continuation of my discussion with Carlo Ginzburg. I had expected to deal with the theoretical problem of how narrative can be counted as a non-scientific but cognitively responsible form of explanation for certain kinds of events of a non-natural kind. Dunque, non sapevo che questo incontro sarebbe stato presentato come una continuazione del mio dibattito con Carlo Ginzburg. Io volevo affrontare la questione teoretica della narrativa come una forma cognitiva non scientifica responsabile. You repeat the last. Cognitively responsible, no, è difficile. Responsabile a livello cognitivo. In modo cognitivo. Sì, sì, cognitivo. Sì. Oh, sorry, the last few words, which I last few words I need to you. Of the non-natural. Of non-natural phenomena, cioè. Di fenomeni non naturali. Cultural phenomena. Cioè fenomeni culturali. Sì. In the current debate over the epistemological authority of narrative, of storytelling, of the cognitive value of storytelling as a mode of explanation. Nel dibattito attuale sull'autorità epistemologica l'autorità della del storytelling, della narrazione come modo, come modalità. See, we distinguish between telling, writing a history and studying something historically. Noi distinguiamo tra scrivere la storia e raccontare qualcosa. No, studiare qualcosa storicamente. Storicamente. È una cosa di studiare, una cosa dal punto di vista storicistica o storicamente, un altro di composare. Comporre. Oh, I'm sorry. It's okay. Now you can translate it into English. si vede la distinzione, non è vero? Studiare qualcosa storicamente, composare una storia, una storia di qualcosa che sarà una narrativizzazione o un'anti-narrativizzazione nello stesso tempo, especially when it's a matter of writing a counter history, specialmente quando si tratta di scrivere una controstoria, when one wishes to deconstruct the normal narrative account, quando si vuole fare la decostruzione della trattazione narrativa normale. My debate with Carlo Ginzburg had to do with a meeting in which I thought that I was adequately characterizing Carlo's book The Cheese and the Worms, Il formaggio e i vermi. Il mio dibattito con Carlo Ginzburg è nato da un incontro dove io pensavo di aver caratterizzato Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi, sì, in modo adeguato. His mode of proceeding, microstoricamente, come lui dice, suo modo di procedere microstoricamente, come dice, è una modalità positivista. E ho dato un'offesa a Carlo perché lui si riguarda come he regards himself as both a scientist and an artist. E l'ho offeso perché lui si ritiene sia scienziato che artista. I thought that he would agree with my approach to how historians explain by telling stories, because the cheese and the worms, I formaggi e i vermi, is a construction based on about 2 pages of a manuscript of the Inquisition, and the rest is pure speculation or composition, io direi. Okay. Io pensavo che sarebbe stato d'accordo con la mia idea che gli storici spiegano attraverso raccontando la storia, perché il suo libro Il formaggio e i vermi è una costruzione che si basa su 2 pagine di manoscritto dall'Inquisizione e il resto è una speculazione. Sì. Carlo Ginzburg was offended by this because he thinks that my conception of historical composition is relativistic and skeptical. I'm guilty of skepticism and relativism. Lui si è offeso perché ritiene che la mia concezione della composizione storica è pecca di relativismo e scetticismo. Quindi io sono sia relativista che scettico. From my point of view, skepticism is the basis of scientific inquiry. Per me lo scetticismo sta alla base dell'inchiesta, dell'indagine scientifica. And as far as I'm concerned, I can't understand how anyone can be a historian and not be a relativist. E non capisco come è possibile essere storici e non essere relativisti. In modo culturale, eticamente e anche in un senso epistemologicamente. This is a difficult issue for Ginsberg because of the problem that you raised earlier, Giacomo, of the Holocaust. This, according to him, if you're skeptical about historical information and a relativist in the way you assess different accounts of extreme events, such as the Holocaust, it can lead to revisionism. There is no way, he thinks, that you can save yourself from revisionism. Allora, questa è una questione difficile per Carlo Ginzburg per via della questione che è stata accennata dell'Olocausto, perché secondo lui se si è scettici nei confronti dell'informazione storica, dei dati storici e relativisti nei riguardi della narrazione degli eventi, allora si apre la porta al pericolo del revisionismo storico. I don't think that's the case. I mean, it seems to me that the revisionists are not giving an interpretation of an historical event. They're denying that the event occurred. Non sono d'accordo, non mi sembra che i revisionisti diano una interpretazione di un avvenimento storico, stanno negando un avvenimento storico. This raises there are two things to be said. First of all, the warning that Ginsberg has for people like me who want to study the history of historical writing as an act of composition in which the historian or anyone else interested in the past, because a historical way of studying the past is not the only way to study it. The historian asks specific kinds of questions of the materials of the past, but people go to the past for many other reasons than to find out what happened in the past in its own terms. Allora, ci sono due cose da dire per quanto riguarda, ci sono due cose da dire. L'avvertimento di Ginsburg per chi studia la storiografia come composizione, come me, e l'avvertimento che fa è che non c'è un solo modo di guardare alla storia, non c'è solo il modo di guardare la storia come come si costruisce la storia, come si fa la storia, la storiografia, ma ci sono anche altre ragioni per cui le persone vanno a riguardare il passato. So, although it may be unfortunate that relativism and skepticism opens up a wide array of possible interpretations of the past, quindi anche se è un peccato che il relativismo e lo scetticismo possono aprire tutta una serie di possibili interpretazioni del passato. It's one thing to lament this circumstance. It's another thing to give arguments against skepticism and relativism. Because Ginsberg always takes the view with me, we can't have this because it may lead to fascism. Una cosa è, quindi anche se c'è questo, anche se il relativismo e lo scetticismo possono apportare questi problemi, una cosa indicare l'esistenza di questo problema, e l'altro è militare contro lo scetticismo e il relativismo, perché Ginsburg mi accusa sempre che questo non si può accettare perché ci apre la porta al fascismo e alle interpretazioni revisioniste. At the same time, Ginsburg argues that historians must try to be not so much objective as rather neutral in their approach to the documents of the past. Neutral. E poi sostiene che Ginsburg e gli storici non devono cercare tanto l'obiettività nei confronti dei documenti del passato quanto la neutralità. Now, in response to Ginsburg's concerns, I've recently tried to rethink the problem of the past as an object of attention by different disciplines in the human and social sciences and in the arts as well, as against the interest in the past that modern professional historians have. Quindi per rispondere alle preoccupazioni di Ginsburg ho cercato di ripensare al passato come oggetto di studio da parte delle scienze umane, sociali e da parte delle arti, in contrasto come oggetto di studio degli storici di professione. My thesis would be that ever since history was detached from rhetoric and removed from the field of moral philosophy, which was its function prior to the early 19th century, and moved over into the domain of science, history cut itself off from the social function that would have allowed it to participate in the moral discourses, I should say, the ethical discourses of our time. E la mia tesi è che da quando la storia si è separata dalla retorica e dalla filosofia morale, che dove si collocava fino all'Ottocento, ed è entrata a far parte delle scienze, ha perso una funzione principua che era di partecipare al discorso etico-morale. Ok, this allows me... This allows me to entertain a thesis of an English philosopher, well known, I think, in Italy, Michael Oakeshott. Michael Oakeshott, who makes a distinction between the historical past and the practical past. Adesso questo mi permette di esaminare una tesi di un filosofo inglese ben noto qui in Italia, credo Michael Oakeshott, che fa una distinzione tra passato storico e passato pratico. Practical in Kant's sense, in the sense of Immanuel Kant, practical having to do with the ethical question, what should I do, or as Lenin put it, what is to be done? Pratico nel senso kantiano, nel senso della domanda etica che cosa bisogna fare o che cosa devo fare, come dicono i non specialisti. Discorso ethical discourse has less to do in modernity, has less to do with good and evil, what is the good, than with the problem of what is called for in the way of action in the present? What should I do today? And va bene? Sì. Il discorso etico nella modernità non si impernia tanto sulla questione del bene e del male, ma piuttosto riguardo a che azione devo intraprendere oggi nella situazione attuale. What should I do today in the absence of any kind of absolute moral standard? Either metaphysical, ontological, or religious, in a kind of existentialist sense, in which we must confront very difficult moral issues and practical issues in our daily lives. Quindi cosa devo fare in assenza, nella modernità, in assenza di indicazioni, di metri che mi vengono dalla metafisica o dalla religione, nel senso esistenzialista, delle domande molto complesse che mi vengono poste nella vita quotidiana. You will all know that in his last book, The Introduction to Logic, Immanuel Kant, published in 1804, just before his death, Kant said that the three great books that he had written, the Critique of Pure Reason, the Critique of Practical Reason, and the Critique of Judgment, that the first asked the question, what can I know? The second asked the question, what should I do? And the third asked the question, what may I hope? Kant nel suo ultimo libro Prolegomi in italiano alla logica, in italiano è l'introduzione alla logica. Ha detto che nei suoi tre grandi libri, la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e critica del giudizio, si è posto tre domande. Primo, che cosa so, in secondo caso cosa devo fare, e nel terzo caso cosa posso sperare. Michael Oakeshott believes that we go to the past as the last resource for entertaining morally responsible action in different kinds of situations, since we no longer have an absolute criterion for determining what good would be in every situation. The historical record provides us with a kind of practicum of existentially significant choices, actions, and so forth. And that the study of this past is different from the study of the historical past insofar as the professional historian is not asking practical questions and effectively denies that historical knowledge can be used for illuminating present problems and situations. In other words, the scientization of historical studies cut it off from any possibility of addressing the kinds of practical, ethical issues that history had always been addressing from the time of Herodotus right down to Gibbon and Hugh Blair. Allora, Oakeshott dice che ci volgiamo al passato per avere una specie di prontuario di azioni morali e di atteggiamenti di responsabilità in diverse situazioni. Questo in mancanza dei criteri assoluti, di criteri assoluti che possono applicarsi a qualsiasi soluzione. Quindi è una specie di compendio, la storia, di possibili azioni nei confronti di determinate situazioni. E questo a differenza del passato storico, che viene studiato dagli storici, che negano l'utilizzabilità del passato per dirimere le questioni etiche. Quindi la scientizzazione della storia ha troncato il vincolo tra studio della storia e esame delle questioni etiche e morali, che era una parte fondamentale della storiografia a partire da Erodoto attraverso Gibbon. Excuse me. My thesis would be, and here I want to connect up now with my subject, which is, I've forgotten what it was now, narrazione e modernità, that the examination of the practical past, which is made up not only of information about our own lives and the lives of the community to which we belong, and if we're scholars, of other communities as well, is made up not only of that, but as well is made up of memories, both individual and collective, that we bring to our consideration of what is to be done in our daily lives, politically, otherwise. E la mia tesi, che poi enuncio prima di passare al mio tema, il tema che avevo preparato, che è la narrazione alla modernità, è che l'esame del passato pratico si forma da informazioni che vengono, che riguardano la nostra vita, le nostre comunità, se siamo degli studiosi anche le altre comunità, aggiunge a queste informazioni che abbiamo nelle nostre vite normali, la nostra vita, la nostra comunità, e possibilmente le vite di altri, le vite di altre comunità, aggiunge a questo delle memorie, dei ricordi che possono essere o ricordi a livello di individui oppure ricordi collettivi che noi possiamo utilizzare per esaminare il che farsi etico e politico nella nostra vita. This cell phone, this mobile, is carrying around a lot of information about the past, of practical nature, that this lady is. And in fact, modernità is characterized by this superabundance of information, much of which is personal but not subjective. Questo telefono cellulare che abbiamo sentito contiene, trasmette una gran quantità di informazioni di tipo pratico, come nella definizione che ho appena dato, e questa è una caratteristica della nostra della modernità, è che c'è una diffusione di molti dati che sono personali ma non soggettivi. I think that what happened in the 19th century, as the realist novel became more and more interested in the practical past, Balzac, per esempio, he says, I write the history of the human heart. Flaubert, not only in his treatment of the present as history, not only his treatment of the present as history, recall Education Sentimentale and the great scene that takes place outside the city while the revolution of 1848 is going on in Paris. The treatment of the present as history. This is Auerbach's thesis about the realism of the modern novel, as from its origins in the early 19th century. Its origins, I would say, in the historical novel, in the romanzo storico. That is to say, in Dickens and Manzoni. That's an Elise. Okay. Nell'Ottocento il romanzo realista si è interessato al passato pratico. Questo si è visto con Balzac, che ha detto che voleva scrivere la storia del cuore umano, Flaubert, che trattava il presente come storia. Lo vediamo un esempio che c'è nell'Educazione Sentimentale, dove al di fuori della città c'è la scena della rivoluzione del 1848 in corso. Questo corrisponde alla teoria di Auerbach che riguarda lo sviluppo del realismo nel romanzo moderno, e che deriva, direi, aggiungerei io, dal romanzo storico, da Dickens, da Manzoni. Dickens, Scott, Sir Walter Scott above all. And the debate over whether the novel, whether the literary artist was violating some principle of some moral principle in presenting fact and fiction in the same work, in mixing fact with fiction, created a great debate, which the historians finally won, leading both Dickens and both Scott and Manzoni to withdraw their great project of the treatment of the past in a non-scholarly way, but in an artistic way, leading them to decide that they had violated a taboo, that could not be violated without doing harm to, well, the youth of the world, right? E Scott soprattutto tra questi romanzieri. Il dibattito se riguarda se il romanzo di questo tipo violasse dei principi morali, nel senso di perché mischiava il fatto e la finzione, è un dibattito che è stato vinto dagli storici, e questo ha portato persone come Scott e Manzoni a ritirarsi dalla loro impresa della trattazione del passato in modalità narrativa e non scientifica, con l'impressione di aver violato un tabù che esisteva nell'utilizzo del modo di fare la storia. But the historians continued to present their findings in the narrative mode. I mean, that, in one respect, to become scientific in the 19th century meant to abandon narrative accounts of the real world. For example, Darwin abandons the natural history approach to biological phenomena precisely because telling stories about the natural world was mystification. You see it all the time. In art museums, the narration that the curators have put there about a given period of art history does nothing but obscure the formal developments, the treatment of light, color, and form that the artists are working with in a highly problematic experimental way. So too in zoological gardens, you know, where they will tell you little narrative, little stories about mother snake and father snake and the little snake, stakinis, that are living their lives happily in captivity in the zoo. Narrativization of the world is a remystification because stories exist only in books and in words, not in reality. One does not find the story already made. It's a myth of journalism that you go and find the story in the events, in the facts. No, the story can only be made by a compositional action in which you select out certain elements for treatment and combine them with others in a way in which you make out of a series a sequence. Is that too much? We'll try and see what happens. ma gli storici continuavano a presentare i loro risultati secondo una modalità narrativa. Essere scienziati nell'Ottocento voleva dire invece abbandonare la modalità, l'esposizione narrativa. Darwin ha abbandonato abbandonato le modalità della storia naturale nel trattare del mondo naturale, perché si trattava di una storia naturale rappresenta una mistificazione della realtà. Questo tipo di cosa lo vediamo nei musei d'arte, dove le narrazioni che vengono poste dai curatori, dai responsabili dei musei d'arte, non fa niente, non contribuisce a spiegare quello che stanno cercando di fare gli artisti a livello di forma, di colore, di luci, anzi stende un velo e rende più difficile capire l'evoluzione. E lo vediamo negli giardini zoologici, dove ci raccontano delle storie riguardo a papà serpente, mamma serpente, i serpentini e tutte le loro attività. La narrativizzazione quindi è una rimistificazione, perché il racconto esiste nel libro, nei libri esistono i racconti e non nel mondo. Il racconto non è presente già fatto nel mondo. È un mito del giornalismo questo di andare a cercare la notizia, il racconto. Il racconto si fa con la composizione e ponendo degli elementi in una data sequenza. 5 minuti di più. Okay. This was the situation prior to around 1930 or 1940 when history, historical studies decided to become more scientific. And one of the effects of this was an attack upon narrativity itself in historical writing. And I'm going to quote, Brodel, Fernand Brodel, in a piece he wrote in 1950. And you can read that. Okay. Quindi questa situazione si è protratta, la situazione della storiografia narrativa si è protratta fino agli anni 30-90, quando negli studi storici si è deciso di assumere un atteggiamento più scientifico e quindi si è lanciato un attacco nei confronti della narrativa nella storiografia. Shall I just read it out then? Just read it. Sì. Allora, questa è una citazione di Brodel, che dice: la storia narrativa, tanto cara al cuore di Ranke, ci offre bagliori e non illuminazioni, fatti ma non umanità. Si noti che questa storia narrativa pretende sempre di riferire le cose come sono realmente accadute, tra virgolette. Di fatto, però, nel mondo sotterraneo che le è proprio, la storia narrativa consiste in un'interpretazione, in un'autentica filosofia della storia. Per gli storici narrativi, la storia degli uomini è dominata da accidenti drammatici, dalle azioni di quegli esseri eccezionali che emergono occasionalmente, che spesso sono padroni del proprio fato e ancora più dei nostri. E quando costoro parlano di storia generale, in realtà stanno parlando dell'incrociarsi di questi destini eccezionali, perché ovviamente ciascun eroe deve confrontarsi con un altro. Come tutti sappiamo, è una fallacia deludente. Now, at the same time, narrativity was being abandoned in the romanzo moderno. Okay. Well, I want to say the modernist novel, because the modern novel begins really somewhere with Cervantes, perhaps. But I want to say the modernist novel, because modernism in the novel, especially in Joyce, Proust, Virginia Woolf, later on Gertrude Stein, Kafka, Musil, many, many others, the modernist novel systematically abandons any kind of claim to narrative coherence. It doesn't mean that it stops narrating. What it does is narrate and tell the world as having none of the coherence that the story in its fabulistic form promises us in fairy tales, for example, but also even in the realist novel of the 19th century, even in Balzac, even in Flaubert. What happens in the modernist novel of that I've cited is you have a dissolution of character. You have this already in Henry James. You have a dissolution of the event. It's no longer possible to determine the clear outlines of an event. This is a result of stream of consciousness, of Stille und Rechte Liebe. No one knows who is speaking. No one is clear about who the narrator is. Sometimes the narrator is the protagonist. Sometimes it's the narrator. Sometimes it's the author. But the fact that you have now these hybrid forms means that you have to do away with all of the standard ways of making sense of the world given to us in the great narrative art of Balzac even and Zola. With modernism, you have a parallel movement, exclusion of narrative along with an exclusion of the kind of temporality which narrative form imposes upon the flow of events. Same thing is happening, of course, in philosophy with Bergson and Heidegger and a number of others. Heidegger tries to salvage something of the traditional conception of time, of temporality, of kairotic time, of eukairos, and so forth. But along with character and event goes also plot. No more plot. No more plot. In the Nouvel Roman, you have all three of these things gone. My contention is that the return to an interest in history in the postmodernist novel is an ironic return to the kind of certitudes that the realist novel gave us, but it's a return to a version of history in terms of the practical past rather than that of the past of the historians. So that the debate over history and memory in the Holocaust discussion is a non-debate. Historians are not interested in the practical past, professionally, that is. They may be, personally. But they are not interested. They're interested for the past, for its own sake, as in fact it really was, and in its own terms. Croce still thought that, you know, senza narrazione non c'è la storia. That's all right, I'm finished. Oh, I've finished it. Okay. Okay. Yeah. You don't have to sum it up. They get it. Well, I'm trying, yeah. Allo stesso tempo anche la narratività veniva abbandonata dal romanzo modernista, con persone come Joyce, Proust, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Kafka, Musil. In tutti questi casi c'è un abbandono della... non è che non c'è più narrativa, c'è la narrazione, ma non c'è più la rivendicazione della coerenza della narrazione. Non è più come... non c'è più la narrazione con la che rivendica la coerenza come nel caso delle fiabe o nei romanzi classici di Flaubert e Balzac. Modernismo in narrativa effettua la dissoluzione di varie cose, del personaggio, questo già in Henry James c'è la dissoluzione del personaggio, dell'evento con il flusso di coscienza, non abbiamo più dei chiari contorni per quanto riguarda gli eventi e non sappiamo neanche col flusso di coscienza chi è il narratore, a volte il protagonista, a volte è l'autore. Quindi questo anche comporta l'abbandono della modalità classica di capire il mondo che avevamo con Balzac e anche quindi il modo in cui la temporalità veniva inserita nella narrazione. Questo l'abbiamo anche a livello filosofico con Bergson e Heidegger, che pure abbandonano la narratività. E poi si abbandona anche l'intreccio nel Nouvel Roman. Non si ha nemmeno la trama, l'intreccio. Il ritorno all'interesse storico che vediamo nel romanzo postmoderno è un ritorno di tipo ironico alla storia. Si occupa, si interessa della storia pratica piuttosto che della storia scientifica. Il dibattito storico che abbiamo per esempio adesso sull'Olocausto è un non dibattito in realtà, perché gli storici non si interessano alla storia pratica, in questo caso agli aspetti etici connessi a questo, e quindi praticamente non si occupano della questione quanto questione etica. If I had time, I would discuss two postmodernist novels that manifest this interest in the practical past, understood as historical, but not approached in the mode or in the interest of a reconstruction of that past, but in using it to address contemporary issues. The two novels I would discuss would be Toni Morrison's novel Beloved, on the one side, and on the other, it would be Winfried Zabel's great novel, Austerlitz, on the other. If you think of Austerlitz, you know, no plot, no character, no event, merely a wandering among the ruins of Europe and of lost memories. Toni Morrison, in a new preface to Beloved that was published in 1987, said the following. I'll summarize. But I urge you to see it because it's really a remarkably perspicuous way of thinking about the postmodernist novel and the practical past. In her introduction, she says, "I base the story of Beloved on a real person, Margaret Garner, who was a slave woman who ran away and took her children with her. And when they came to get her, to take her back, she killed one of her children and tried to kill the others rather than have them return to the condition of slavery." She said, she goes on to remark, she says, "The historical Margaret Garner is fascinating, but to a novelist, confining. You don't know enough about her. There was, as Morrison puts it, too little imaginative space for my purposes in her life." What was this purpose? In Morrison's words, it is this, and I'm going to have you translate it. "It was to invent her thoughts, to plumb them for a subtext that was historically true in essence, substantially true in essence, though not in details, but not strictly factual, in order to relate her history to contemporary issues about freedom, responsibility, and women's place." To contemporary issues. This is what, in Oakeshott's view, is the utility of the practical past, to deal with issues in the present by way of the consideration, the imaginative reconstruction of the of past situations. Okay, now you can deal with Just read this. Can you just read that? Oh, the rest doesn't matter. Se avessi tempo, esaminerei due romanzi che mostrano, esibiscono questo interesse del romanzo postmoderno nei confronti del passato pratico, e, in modo da non da ricostruire il passato, quindi, ma per utilizzare il passato, per sfruttare il passato, per esaminare delle questioni attuali. Uno di questi esempi è Toni Morrison, il romanzo Beloved, e l'altro il famoso Austerlitz di Sebald, dove in Austerlitz non ci sono personaggi, non ci sono avvenimenti, non c'è trama, è solo un vagare tra le rovine della memoria dell'Europa. Nella prefazione a Beloved di Toni Morrison racconta che racconta la storia di una schiava fuggita che poi viene catturata e uccide uno dei propri bambini e cerca di uccidere uno degli altri in modo che non siano condannati anch'essi alla schiavitù. E Toni Morrison dice che la storia reale, la Margaret Garner, si chiama la schiava storica, è affascinante, però limitante come storia, non offriva uno spazio sufficiente per la fantasia, per quello che era il lavoro che voleva fare. E poi spiega qual era il lavoro che voleva fare. Dice inventare quello che pensava, sondare i suoi pensieri alla ricerca di un sottotesto che era nell'essenza vero dal punto di vista storico, ma non totalmente fattuale, corrispondente totalmente ai fatti, in modo da collegare la sua storia a questioni contemporanee riguardanti la libertà, la responsabilità e il ruolo delle donne. Thank you. E questo, quindi, tornando a Oakeshott, è come lui vede l'utilità del passato pratico. Si utilizza la ricostruzione del passato per esaminare questioni che abbiamo davanti ora. Thank you. Thank you.